Al Castello Reale di Stoccolma nell'interminabile inverno del 1811. Questo viaggio da Helsingborg a Stoccolma sembrava che non dovesse finire più. Viaggiavamo di giorno e la sera ballavamo la quadriglia. Non so perché, ma questi nobili ballano continuamente la quadriglia e credono di comportarsi come alla corte di Versailles. Poi mi domandano se mi sembra di essere in patria e io sorrido e mi stringo soltanto nelle spalle. Non so niente della corte di Versailles, tutte cose di prima del mio tempo e per di più papà non è stato neppure fornitore di corte. Durante la giornata la nostra carrozza si fermava in varie città e ne scendevamo e i ragazzini delle scuole cantavano e il borgomastro mi teneva un discorso in una lingua per me incomprensibile. Se almeno sapessi lo svedese, sospirai una volta. Ma come? Il borgomastro parla francese, Altezza? Mi sussurrò il conte Brahe. Probabilmente aveva ragione, ma questo francese suonava come una lingua straniera. Nevicava, senza posa, e la temperatura discese a 24 gradi sotto zero. Di solito sedeva accanto a me la mia nuova dama di corte, questa contessa Levenhaupt, snella e non più giovane, e ossessionata dal desiderio di discorrere di tutti i romanzi francesi che sono usciti negli ultimi 20 anni. Qualche volta facevo viaggiare nella mia vettura anche la signorina Coscul. La damigella di corte ha la mia età, è molto alta e robusta come quasi tutte le svedesi. Ha le guance rosse e fresche, folti capelli scuri, una pettinatura assurda e denti forti e sani. Non la posso soffrire. Ella mi guarda sempre con tanta curiosa degnazione. Mi sono fatta raccontare tutti i particolari dell'arrivo di Giambattista a Stoccolma e come egli di colpo si sia conquistato il cuore delle loro maestà. Al suo ingresso, il re, malaticcio, si era levato dalla poltrona e gli aveva teso la mano tremante. Ma Giambattista si chinò sulla mano tremante e la baciò. Sulle guance del vecchio scesero le prime lacrime. Poi Giambattista andò a fare visita alla regina. Edvige Elisabetta Carlotta aveva fatto per lui una grande toeletta. Ma sul suo petto era come sempre appuntata una spilla col ritratto dell'esiliato Gustavo IV. Quando Giambattista si chinò sulla sua mano, si racconta che abbia detto semplicemente: «Madame, io comprendo ciò che provate al mio arrivo, e soltanto vi prego di ricordarvi che anche il primo re di Svezia era un soldato, il quale altro non voleva che servire il vostro popolo». Dicono che Giambattista passi tutte le serate nel salotto della regina. Il vecchio re compare sempre al braccio del principe ereditario. Nelle sale delle udienze, alle sedute del Consiglio di Stato, Giambattista deve sorreggerlo, un tenero figlio e un padre amoroso. Nel pomeriggio del 6 gennaio ci avvicinammo finalmente a Stoccolma. Le strade erano tanto gelate che i cavalli non riuscivano a tirare le nostre carrozze su per le piccole slitte. Con gli altri scendevo a terra e camminavo dietro la vettura. Stringevo i denti per non urlare, tanto il vento mi sferzava la faccia. Quanto dura l'inverno qui da voi, barone Adelsford? Il vento gelido mi alterava in bocca le parole, dovetti ripetere la domanda più volte. Fino ad aprile fu la risposta. In aprile a Marsiglia fioriscono le mimose. Poi rimontammo in carrozza. Oscar insisteva a voler sedere a cassetta accanto al cocchiere. Così potrò vedere meglio Stoccolma quando arriveremo, mamma. Ma incomincia già a fare buio, caro, dissi io. Nevicava così forte che non si poteva proprio vedere più nulla. Poi tutto sprofondò nell'oscurità. Ogni tanto un cavallo incespicava sulla strada ghiacciata. Ad un tratto la mia vettura si fermò con uno scossone. Sfavillò rossa una luce di torcia. Lo sportello venne spalancato. Désirée! Oh, Giambattista! Mi era venuto incontro con una slitta preceduta da portatori di torce a cavallo. Distiamo soltanto 1 miglio da Stoccolma. Ancora un pochino e sarai a casa, ragazzina. Posso continuare il viaggio nella tua slitta, papà? Non sono mai andato in slitta. Il conte Brahe e la Levenhaupt presero posto in un'altra carrozza e Giambattista salì da me. Nel buio della vettura mi strinsi a lui, ma non eravamo soli. Di fronte a noi sedeva la Coscul. Sentii la mano di lui nel mio manicotto. Che mani fredde hai, ragazzina! Volevo ridere e dovetti singhiozzare. 24 gradi sotto zero e questo clima Giambattista lo chiama già casa. Le loro maestà ti aspettano per il tè nel salotto della regina. Non devi mutarti d'abito. Le loro maestà vogliono soltanto salutare te, Oscar, senza alcun cerimoniale. Domani, sua maestà, la regina darà un ballo in tuo onore. Parlava in fretta, affannoso. Sei malato, Giambattista? Oh, affatto, soltanto molto infreddato e un po' strapazzato. Grattacapi? Grossi? Pausa. Poi, di colpo, Alchier, sai, l'ambasciatore francese a Stoccolma, ha presentato una nuova nota di Napoleone. L'imperatore chiede che mettiamo a sua disposizione 2000 marinai. Così, senz'altro, 2000 marinai svedesi, per comprovare l'amicizia della Svezia con la Francia. E come hai risposto? Ti prego, intendi bene la situazione. Si tratta della risposta del governo di Sua Maestà il Re, non di quella del principe ereditario. Come uno scolaretto, ripetei, e come ha risposto il governo svedese, Giambattista? Ci siamo rifiutati. Abbiamo detto che non possiamo rinunciare a 2000 marinai, proprio quando la Francia ci costringe a dichiarare la guerra all'Inghilterra. Ma forse Napoleone vi lascerà tranquilli, Giambattista? Proprio ora che ammassa truppe alla frontiera della Pomerania svedese? Da un momento all'altro le sue truppe possono invadere la Pomerania svedese. Le comanda Davout. Luci isolate emersero ai due lati della strada. «Siamo quasi a Stoccolma, Altezza», disse la Coscul dal buio. «Non hai nostalgia delle luci di Parigi, Giambattista?» Nel manicotto la sua mano strinse le mie dita, compresi. In presenza di svedesi non si deve mai parlare di nostalgia di Parigi. «Difenderai la Pomerania svedese?» domandai. Giambattista rise forte. «E con che cosa? Credi davvero che l'esercito svedese, nelle condizioni attuali, possa resistere al nostro... voglio dire, a un esercito francese?» «E comandato da un maresciallo di Francia? Mai, e poi mai. Io stesso allora in Pomerania contro gli svedesi...» Si interruppe. «Ho incominciato a riorganizzare l'esercito svedese. Ogni mese faccio venire un reggimento a Stoccolma per istruire direttamente le truppe. Se avessi 2 anni di tempo, soltanto 2 anni...» Le luci aumentarono. Mi sporsi per guardare fuori, ma nevicava troppo forte. Non vedevo che il turbine dei fiocchi di neve. «Hai una pelliccia nuova, Desiree?» «Oh sì, figurati! Un regalo per la partenza dell'imperatore, spedito con un corriere speciale che mi ha raggiunta a Nyborg, in Danimarca. Curioso, non è vero?» «Capisco. Non potevi rifiutarla.» «Giambattista, la donna che rifiuta una pelliccia di Zibellino deve ancora nascere. È una delle 3 pellicce che lo zar ha donato all'imperatore.» «Non so se ti hanno informata dei particolari dell'etichetta di corte. Ne avete parlato con mia moglie, signorina Coscul?» La Coscul affermò di averlo fatto. Io non me ne ricordo. «È ancora un po' come...» Giambattista si schiarì la gola. «Come una volta, capisci?» Appoggiai la testa sulla spalla di Giambattista. «Come una volta? Una volta non ero qui e perciò non ne so nulla. Cara, voglio dire come una volta a Versailles. Ma in un modo o in un altro tutto si aggiusterà, vedrò di stare attenta.» Delle torce fiammeggiarono ai due lati. Salimmo per una rampa e la carrozza si fermò. Giambattista mi portò fuori. Ero intirizzita dal freddo e vedevo delle lunghe file di alte finestre, tutte illuminate. «Il Meller! Si vede il Meller di qui! Domattina lo vedrai! Il castello si trova appunto sul Meller», disse Giambattista. D'improvviso ci fu un formicolio di gente. Sbucarono fuori dei cavalieri dalle giacche corte e dalle larghe brache in rosso e nero. «Oh, per l'amor di Dio, un ballo mascherato!» mi sfuggì di bocca. «I domini neri uccidono un re», mi balenò in mente. Una dama rise forte. «Cara, non sono maschere, sono le uniformi che si portano a corte», mi spiegò Giambattista. «Vieni, le loro maestà ti attendono.» «No, Giambattista, non fece attendere i suoi cari genitori adottivi. Oscar ed io fummo incalzati su per scaloni di marmo e avemmo appena il tempo di deporre le nostre pellicce. Dove s'era cacciata Yvette con la sua scatola dei belletti? Yvette era scomparsa. Mi avvicinai ad uno specchio. La mia faccia era pallida, il naso rosso, avevo un aspetto orribile. Le scarpe bagnate mi si appiccicavano ai piedi. Avevamo camminato dietro le nostre vetture tra il ghiaccio e la neve. Una porta a 2 battenti si aperse, un'ondata di luce mi investì e mi trovai in un salottino bianco. Mia moglie Desideria, che desidera di essere una buona figlia di vostra maestà. e mio figlio Oscar. Dapprima credetti di non aver visto bene. Aveva davvero i capelli incipriati. Oh, devo scriverlo a Giulia. La regina porta i capelli incipriati e un nastro nero intorno al collo. Mi inchinai. I suoi occhi chiari erano socchiusi. Deve essere miope. Quello sguardo chiaro trafiggeva la mia faccia. Ella sorrideva, ma non era un sorriso contento. Era assai più alta di me e nell'antiquato abito di raso azzurro pallido aveva un aspetto molto regale. Tese la mano sotto il mio naso perché la baciassi, probabilmente. «Mia cara figlia Desideria, benvenuta!» disse pacatamente. Io toccai la sua mano col naso, non volli baciarla. Poi mi trovai davanti a un vecchio dagli occhi acquosi, con radi capelli fini e bianchi sul cranio rosato. «Cara figlia, cara figlia!» guaiva il vecchio signore commosso. Giambattista gli fu subito accanto e gli offerse il braccio per sorreggerlo. In quel momento mi si accostò alla regina. «Vorrei presentarvi alla regina vedova», disse pacatamente, e mi condusse da una donna magra e pallida vestita di nero. La nera cuffietta vedovile e civettuola sui capelli incipriati ondeggiava sopra un viso dai lineamenti rigidi, impietrati. «Sua maestà, la regina Sofia Maddalena», disse la voce fredda, pacata. «Per l'amor del cielo, chi è costei? Quante regine ci sono a questa corte? La regina vedova deve essere la moglie del Gustavo III assassinato, la madre del Gustavo IV che è stato esiliato. Esiste dunque ancora? Abita qui e si fa persino presentare il nuovo parentado». Mi inchinai profondamente, anche più che davanti alla regina. La madre dell'uomo di cui Giambattista è l'erede. Il cuore mi batteva forte. La nonna del fanciullo di cui Oscar prende il posto. «Spero che vi troverete molto bene alla mia corte, altezza», disse. Parlava a bassa voce, quasi senza muovere le labbra. Sembrava indifferente. «Sua altezza reale, la principessa Sofia Albertina, sorella di sua maestà», disse la regina. Una faccia caprina, di età indefinita, mostrò in un sorriso dolciastro i suoi lunghi denti. Mi inchinai e poi mi diressi verso la grande stufa di porcellana. Nella maggior parte delle stanze in Svezia non ci sono dei camini come da noi in Francia, ma delle stufe rotonde, alte, alle quali nelle sere del mio viaggio mi ero sempre appoggiata volentieri. I miei piedi e le mie mani erano ancora sempre di ghiaccio. Era meraviglioso potersi appoggiare stretti ad una di queste calde stufe. Dei lacchè servirono del vino caldo e mi sentii un po' meglio. Il conte Brahe mi stava vicino. Il mio giovane cavaliere non mi abbandona, pensai. Ma dov'era Giambattista? Egli si chinava sul tremolante re che adesso era seduto sulla poltrona e con la mano rattrappita dalla gotta accarezzava la guancia di Oscar. Ad un tratto mi accorsi che tutti gli sguardi erano puntati su di me. Che cosa si aspettava da me? Con tutto il mio essere sentii l'onda di delusione che mi avvolgeva. Non era un'apparizione regale, non una singolare bellezza, non una grand'ama. Me ne stavo contro la stufa e avevo freddo. Avevo il naso all'insù e i miei capelli corti si erano tutti appiccicati in ciocche bagnate. «Non volete accomodarvi, madame?» Era la regina. Lenta, con un fruscio ben studiato, si lasciò cadere su di una poltrona e con la mano accennò alla sedia vuota accanto a lei. «Chiedo scusa, ma ho i piedi così bagnati. Giambattista, non potresti levarmi le scarpe o pregare Villat che me le levi lui?» Tutti gli occhi si levarono inorriditi. «Oddio, l'ho fatta grossa. Ho nelle mani il bicchiere caldo. Non posso togliermi nello stesso tempo le scarpe. Giambattista o Villat mille volte ad Annofero nella Rue d'Anjou». Guardai un po' l'uno e un po' l'altro. Come un cerchio di ferro mi circondava il silenzio. Ma ecco, ecco, fu interrotto. Qualcuno ridacchiò, senza ritegno, stridulo. Era Mariana de Coscul. Arcigna, la regina, si volse verso di lei e subito il riso si tramutò in una tossettina leggera. Già era presso di me Giambattista e mi offriva il braccio. «Prego le vostre maestà di scusare mia moglie. È tutta bagnata, estremata dal viaggio e vorrebbe ritirarsi». La testa incipriata assentì. La bocca del re era semiaperta, come se egli ancora riflettesse se aveva o no sentito bene. Io chinai il capo. Quando lo rialzai mi imbattei nel primo sorriso. Mi dissero poi che la regina vedova Sofia Maddalena non aveva più riso da molti anni, ma adesso la sua smorta bocca era contratta. amara, sarcastica. I Vasa sono a questo punto, dunque. Sulla soglia mi voltai ancora per chiamare Oscar, ma il ragazzo stava appunto esaminando i bottoni dell'uniforme di Sua Maestà. Il vecchio signore sembrava raggiante di gioia. Mi lasciai allora condurre fuori da Giambattista in silenzio. Soltanto quando fui nella mia camera da letto, riprese a parlare. Ho fatto rinnovare completamente il tuo appartamento. Tappezzerie di Parigi, tappeti di Parigi, ti piace? Vorrei fare un bagno caldo, Giambattista. Ecco, questo no, è il solo desiderio che ancora non ti possa esaudire. Come? Non si fanno bagni a Stoccolma? Scosse il capo. Io sono l'unico, credo. Come? Le regine, le dame di corte, i cavalieri, nessuno fa il bagno qui? No, ti ho detto. È tutto ancora come, ecco, come a Versailles al tempo dei Borboni. Qui non si fanno bagni. Io ho avuto un presentimento e ho portato con me la mia tinozza, ma soltanto da una settimana posso avere dell'acqua calda. La cucina è troppo lontana dal mio appartamento privato. Adesso è stato impiantato un fornello nelle vicinanze della mia camera da letto e Fernando può farvi scaldare l'acqua per il mio bagno. Procurerò un fornello come questo anche per te e cercherò di scovare una tinozza. Devi avere un po' di pazienza. Per tutto devi avere pazienza. Ecco. Feci cenno di sì, poi Giambattista, mi sono comportata molto male. Voglio dire, era un grave delitto contro l'etichetta che mi volessi far togliere le scarpe bagnate da Villat. Oh, è stato terribile, ragazzina, davvero terribile. Buttò indietro il capo e si alzò. Ma tu non potevi sapere. E a corte potevano prevederlo. Avevo messo in guardia gli inviati del re quella notte quando offrirono a noi la corona. Non a noi, Giambattista. A te. Maria mi condusse a letto, mise gli scaldini sotto i miei piedi e da ultimo mi distese ancora sulla coperta la pelliccia di zibellino dell'imperatore. «Tutte le donne affermano di avere una suocera maligna», mormorai. «Ma la mia! Senti, Maria, la mia lo è davvero!» La sera presso si ballò nelle sale di gala del re e della regina. Due giorni dopo, il borgomastro di Stoccolma diede alla borsa un ballo in mio onore. Indossai i miei abiti bianchi e mi posi un velo dorato sui capelli e sulle spalle. Le signore della nobiltà svedese avevano dei meravigliosi gioielli di famiglia, grossi brillanti e zaffiri azzurro cupo. Ammirai i loro diademi. Né in casa Clary né in casa Bernadotte c'erano mai state delle preziose gioie di famiglia. Il giorno dopo il ballo, la contessa Levenhaupt mi portò un paio di orecchini di brillanti e smeraldi. «Un dono della regina?» chiesi. «Forse trova che sono sembrata un po' miserabile?» «No, un dono della regina vedova», disse la Levenhaupt impassibile. «La regina vedova portava spesso, una volta, questi orecchini. Adesso è in lutto e non porta più gioielli». Mi misi gli orecchini il 26 gennaio per il compleanno di Giambattista. In onore suo la regina diede una festa nella quale si recitò, purtroppo non con attori veri. I giovani nobili svedesi e le dame dell'aristocrazia danzarono per noi una quadriglia nei costumi nazionali delle varie regioni del paese e da ultimo le coppie fecero cerchio ed entrarono sgambettando le cosiddette valchirie. Mi fu spiegato che nei tempi antichi i popoli del nord credevano alle valchirie. Sono divinità dei campi di battaglia, muse della guerra. Proprio bene non lo so. Comunque le dame che le dovevano rappresentare avevano indossato una specie di camicia da notte di scaglie di metallo che suonava e tintinnava e portavano uno scudo e una lancia. In mezzo a loro stava la Koskull in una corazza d'oro e sorrideva trionfante. Le altre cantavano «Oh Brunilde, oh Brunilde!». Poi la Koskull piegò lo scudo e il capo e fissò intensamente Giambattista negli occhi. Da ultimo tutte le valchirie avanzarono danzando a piccoli graziosi passi di minuetto verso di noi. Si inginocchiarono davanti a Oscar e prima che ce ne avvedessimo lo sollevarono e lo portarono tra gli applausi clamorosi di tutti gli spettatori fuori della sala. Tutto questo era stata un'idea della bella Koskull e nessuno si sarebbe immaginato una più lieta festa di compleanno. Giambattista sedeva tra la regina e me, i suoi occhi erano profondamente infossati. Durante l'esecuzione dei pezzi di musica si mordeva inquieto il labbro inferiore. «Da voi attaccherà la Pomerania?» Impercettibile assenso. Preoccupazioni grosse, Giambattista? Impercettibile assenso. Poi ho mandato un corriere allo zar di Russia. Ma è alleato di Napoleone, che cosa speri da lui? Alzatina di spalle. Tutto. Lo zar sta armando. E poi, di colpo, Desire, quando parli con gli svedesi, non nominare mai la Finlandia, hai capito? Ma non so nemmeno dove sia la Finlandia. Ci tengono tanto alla Finlandia? Giambattista annuì ancora. È una questione di sentimento. Sperano che io induca lo zar a restituire il paese alla Svezia. E allora? Ma lo zar non può farlo. Perché non guardi mai le carte geografiche? In quel momento le tintinnanti valchirie danzarono il loro minuetto. Era atroce, ma io applaudii, entusiasta. Due giorni dopo era l'onomastico di Carlo XIII. Questa volta demmo noi una festa per le loro maestà, ma tutto era già stato preparato molto tempo prima del mio arrivo. Si rappresentò il barbiere di Siviglia di Paisiello e la coscul cantò la parte della protagonista. Il re, rimbambito, la divorava con gli occhi e levava continuamente le mani tremolanti ad applaudire. Quando ebbe inizio il ballo, Giambattista invitò la coscula ad aprire le danze. Sono una bella coppia. È la prima donna che si alta quasi come lui. Ma davanti a me si inchinò un ometto in un uniforme svedese di corte nuova fiammante. Si curvò lievemente e con molta grazia. «Prego, mamma!» Era il primo ballo a corte di Oscar. Pochi giorni dopo il re ebbe un attacco di apoplessia. Me ne stavo giusto nella mia nuova tinozza da bagno, che veramente è nata come un mastello da lavare. Questo mastello sta in un angolo della mia grande camera da letto, nascosto da un paravento di splendidi arazzi. All'altro lato della stanza, la flotte conversava sottovoce con la coscul. Maria stava china sopra di me e mi strofinava la schiena. Udì aprirsi una porta e fece un segno a Maria, che si fermò. «Vengo proprio ora dalle stanze di Sua Maestà la Regina. Sua Maestà il Re ha avuto un lieve attacco di apoplessia». Era la voce della contessa Levenhaupt. «Oh!» fece la coscul. «Non è il primo. Come sta il Re?» disse Madame La Flotte, indifferente. «Sua Maestà adesso ha bisogno di assoluto riposo. Non v'è pericolo, dicono i medici, ma il re deve riguardarsi e per qualche tempo non potrà occuparsi degli affari di Stato. Dov'è Sua Altezza Reale?» Mossi le gambe, sciaguattai. «La principessa è nel bagno e per il momento non riceve». «Oh, si capisce, è nel bagno, così non si libererà più del suo raffreddore». Sciaguattai di nuovo con le gambe. «Il principe ereditario assumerà la reggenza?» Cessai di diguazzare. «Il cancelliere ne ha fatto la proposta a Sua Maestà la Regina, visto che siamo in una situazione così difficile. Mio Dio, negoziati segreti con la Russia e intanto queste note minacciose della Francia. Il cancelliere desidera che la reggenza passi al più presto al principe ereditario». «Eh?» domandò la coscul. Riuscì perfino a udire come ella trattenne il fiato. «La regina si rifiuta di fare questa proposta al re e il re fa quello che lei vuole». «Davvero?» disse la coscul sarcastica. «Sì, anche se credete di essere voi la sua prediletta. Le vostre letture e le vostre risate tutt'al più lo tengono desto, ed è già qualche cosa. D'altra parte adesso gli fate assai meno letture. Sembra che non ci teniate più molto a essere il raggio di sole di Sua Maestà, o sbaglio forse?» «Oh, è più divertente ballare col principe di Pontecorvo. Scusate, mi sono distratta. Voglio dire, è più divertente ballare col vostro principe ereditario», intervenne Madame La Flotte. «Col nostro principe, Madame La Flotte», corresse la coscul. «Come? Oh, non è certo il mio principe ereditario. Io non sono svedese. Come francese sono soggetta all'imperatore Napoleone, se ciò interessa le signore». «Non ci interessa», disse la contessa Levenhaupt. Come un'ombra, Maria stava appoggiata agli arazzi del paravento. Ci guardammo in silenzio. Io mossi le gambe nell'acqua calda, feci rumore, poi mi lasciai scivolare giù nella tinozza. «E perché, se la domanda è lecita, in queste settimane così risolutive per la Svezia, non si trasferisce la reggenza al principe ereditario?» si informò Madame La Flotte. «Perché lei assolutamente non vuole», sussurrò la Levenhaupt. Aveva sussurrato a voce piuttosto alta e capì che questo discorso era fatto per me. «Sì, si capisce che non vuole», disse la coscul. «Lei adesso è il violino di spalla». Ma era già regina prima che arrivasse il principe ereditario, osservò la Laflotte. Sì, ma il re non contava nulla. Chi governava erano i ministri, le rispose gentile la Coscul. Io non mi muovevo. Maria era come una statua. Se il principe avrà la reggenza, la principessa ereditaria diventerà reggente, disse la Levenhaupt, acre. Seguì una pausa. Il principe ereditario presiederà il Consiglio di Stato e durante la malattia di Sua Maestà la regina gli starà al fianco e rappresenterà il re, disse come incidentalmente la Levenhaupt. E Sua Maestà la regina, sua madre, la sua cara e tenera madre, si mostrerà al popolo al braccio di lui e farà vedere chi ha il potere in Svezia. Questo Legarba, rise la Coscul. La regina ha detto al cancelliere chiaro e tondo che questa è l'unica soluzione possibile, concluse la Levenhaupt. E come l'ha giustificata? Domandò la Coscul. La principessa ereditaria non sarebbe, secondo lei, ancora matura per adempiere i doveri rappresentativi di una reggente. Il prestigio del principe ereditario sarebbe assai compromesso se Sua Altezza Reale, la principessa ereditaria, comparisse troppo spesso in pubblico. «Sono curiosa di sapere se lo dirà al principe ereditario», mormorò la Laflotte. «Glielo ha già detto, perché oltre il cancelliere e me, anche il principe partecipava a questo colloquio». «E voi? Come mai c'eravate?» si informò Madame Laflotte. «Voi siete dama d'onore della principessa, per quanto mi risulta». «Ciò che vi risulta è esatto, cara Madame Laflotte, ma ho anche il grande onore di essere amica della regina. E tutto questo...» È un'ambasciata della regina per me, pensai. Maria, l'accappatoio. Maria mi ravvolse stretta nel mio accappatoio, mi strofinò. Le sue mani erano forti e affettuose. Mi strinsi a lei. Non lasciarla passare, Eugenia. Non lasciarla passare, sussurrò e mi porse la vestaglia. Uscii da dietro il paravento. Le mie dame di corte avevano accostato le loro teste e parlottavano. Vorrei riposare, prego, lasciatemi sola, signore. La Levenhaupt si inchinò. Oh, «Vengo per una triste notizia, Altezza. Sua Maestà ha patito un lieve attacco apoplettico. Il braccio sinistro sembra un po' paralizzato. Sua Maestà deve riguardarsi e...» «Grazie, Contessa, ho già udito tutto mentre facevo il bagno. Vi prego ora di lasciarmi sola». Mi ravvolsi più stretta nella mia vestaglia e andai alla finestra. Erano le 5 del pomeriggio e già era tutto buio. Mucchi di neve erano stati spalati all'uno e all'altro lato e torreggiavano lungo i muri del castello. «Mi stanno seppellendo qui. Mi seppelliscono nella neve. Mi hai chiamata, Eugenia?» «Dovresti farmi un piacere, Maria. Qui a Stoccolma c'è una via che si chiama Västerlandsgatan o qualcosa di simile. Là il padre di Persson aveva il suo negozio di sete. Ti ricordi ancora di Persson, Maria?» Forse domandando potrai arrivare in questa via e vedere se c'è ancora un negozio di seterie Persson. In tal caso, chiedi di parlare col giovane Persson. Non sarà più tanto giovane, borbottò Maria. Gli dirai che sono qui, le dissi. Forse lui neppure sa che la nuova principessa ereditaria è l'Eugenia Claridi allora. E se si ricorda di me, digli che venga a trovarmi. Non so se sia molto prudente, Eugenia. Prudente? Non mi importa, figurati. Se Persson venisse a farmi visita, io potessi avere qui qualcuno che ha conosciuto la nostra villa di Marsiglia e il giardino e persino il padiglione dove Giulia si è fidanzata e mamma e papà. Maria, una persona che sa proprio com'era una volta. Maria, devi provare. Maria, lo devi trovare. E Maria me lo promise e finalmente ebbi qualche cosa di cui potevo rallegrarmi. Quella stessa sera la regina sfilò il pesante anello col sigillo dal dito del re e lo mise al dito di Giambattista. Questo vuol dire che il re gli ha affidato la direzione degli affari di Stato, ma non che lui possa assumere la reggenza. Il cielo era proprio come una coperta da letto, lavata di fresco, e i blocchi verdi di ghiaccio nuotavano nel Mälar. Le onde sotto il ghiaccio verde si gonfiavano e rumoreggiavano, la neve si scioglieva, il ghiaccio si rompeva tuonando. Strano, la primavera non giunge con dolcezza in questo paese, ma infuriando, lottando con impeto e tuttavia così lenta. In uno di questi primi pomeriggi di primavera venne da me la Levenhaupt. «Sua Maestà la regina prega Vostra Altezza Reale di andare a prendere una tazza di tè nel salotto di Sua Maestà». Rimasi sorpresa. Tutte le sere Giambattista ed io ceniamo soli col bambino e passiamo almeno un'ora con la regina. Il re poi sta molto meglio. Sta di nuovo seduto sulla solita poltrona con un sorriso infantile sulla sua bocca di vecchio. Solo il lembo sinistro della bocca penzola un poco. Ma da sola non ho mai fatto visita alla regina. E perché poi? Non abbiamo proprio niente da dirci. Annunciatemi a sua maestà, dissi subito alla Levenhaupt e mi ritirai in fretta nel mio spogliatoio. Mi spazzolai i capelli, mi misi addosso lo scialle foderato di pelliccia che recentemente Giambattista mi ha regalato e iniziai la traversata tra le gelide sale di marmo verso il salotto di sua maestà. Sedevamo intorno ad un piccolo tavolino tutte e tre, la regina Elisabetta Carlotta, mia suocera adottiva, che dovrebbe amarmi, la regina Sofia Maddalena, che ha tutte le ragioni di odiarmi, il marito assassinato, il figlio esiliato, il nipote privato di tutti i diritti alla corona, coetaneo di Oscar, e la principessa Sofia Albertina, alla quale dovrei essere indifferente. La vecchia zitella dal viso sfiorito, dal seno piatto, dal nodo infantile nei capelli e le perle d'ambra di pessimo gusto intorno all'arido collo. Le tre dame ricamavano. «Accomodatevi, madame», disse la regina. Le tre dame continuarono a ricamare. Minuscole roselline di color roseo violetto si intrecciavano nei loro telaietti. Poi venne servito il tè. Le dame deposero i loro telaini e rimescolarono nelle loro tazze. Io bevvi in fretta alcuni sorsi e mi scottai la lingua. Ad un cenno della regina, i lacchè uscirono dal salotto. Nessuna dama di corte era presente. «Vorrei parlarvi, cara figlia», disse la regina. La principessa Sofia Albertina esibì in un maligno sorriso i suoi lunghi denti. La regina vedova invece guardava con indifferenza nella sua tazza di tè. «Vorrei domandarvi, cara figlia, se proprio avete l'impressione di adempiere i vostri doveri di principessa ereditaria di Svezia». Sentii che arrossivo. I pallidi occhi miopi trafiggevano spietatamente il mio volto che diventava di fiamma. «Non lo so, madame», finì col dire. La regina inarcò le sue scure sopracciglia fortemente disegnate. «Non lo sapete?» «No», dissi io, «non sono in grado di giudicare. È la prima volta, in fin dei conti, che sono principessa ereditaria, e lo sono da ben poco tempo». La principessa Sofia Albertina incominciò a belare. Proprio belava, come una capra. La regina levò irritata la mano e la sua voce suonò morbida come la seta. «È deplorevole per il popolo svedese e soprattutto per il successore al trono, eletto da questo popolo, che voi non sappiate come si comporti una principessa ereditaria, madame». La regina bevve molto lentamente un sorso di tè e intanto continuava a guardarmi di sopra l'orlo della sua tazza. «Perciò desidero dirvi, mia cara figlia, come si deve comportare una principessa ereditaria». «Tutto inutile», pensai. «Le lezioni di buon contegno di Monsieur Montel, le lezioni di piano, i miei gesti graziosi imparati con tanta fatica. È inutile anche che io in tutte le feste di corte a Stoccolma stia sempre zitta per non far fare brutte figure a Giambattista con qualche esclamazione sconsiderata. Tutto inutile. Una principessa ereditaria non esce mai in carrozza con un aiutante di suo marito se non accompagnata da una dama di corte. Dio buono, alludeva a Villat. Io conosco il colonnello Villat da molti anni. Veniva già da noi a Chéau. Chiacchieriamo volentieri dei tempi andati», dissi stentatamente. «Alle feste di corte la principessa ereditaria deve cercare con benevolenza di conversare con tutti i presenti. Voi invece ve ne andate intorno, sgraziata, quasi come una sordomuta, madame». «La parola è stata data all'uomo per nascondere i suoi pensieri», mi sfuggì di bocca. La capra zitella belò, stridula. Gli smorti occhi della regina si spalancarono stupefatti. Aggiunsi in fretta: «La frase non è mia, ma di uno dei nostri, di un diplomatico francese, del conte Talleyrand, principe di Benevento, forse vostra maestà». «Naturalmente so chi è Talleyrand», disse seccamente la regina. «Madame, quando non si è molto avveduti e neppure molto colti, e nello stesso tempo si devono nascondere i propri pensieri, non si può valersi del mezzo della parola, perciò sono costretta a tacere». Una tazza di tè tintinnò. La regina vedova aveva posato la sua tazza. La mano improvvisamente le tremava. Dovete sforzarvi di conversare, madame, disse la regina, e poi non saprei quali pensieri abbiate da nascondere ai vostri amici e futuri sudditi svedesi. Intrecciai le mani in grembo e la lasciai dire: tutto passa, anche quest'ora del tè. Uno dei miei lacchè mi ha informato che la vostra cameriera gli ha chiesto notizie del negozio di un certo Persson. Devo avvertirvi che da questa ditta non potete fare acquisti di sorta. Alzai la testa. Perché no? Questo signor Persson non è fornitore di corte e neppure lo sarà. In seguito alla vostra richiesta mi sono informata sul suo conto, madame. Passa per, diciamo, per un seguace di certe idee rivoluzionarie. I miei occhi divennero tondi. Persson? Questo signor Persson ha soggiornato in Francia durante la rivoluzione, a quanto pare per impratichirsi del commercio delle sete, ma da quando è tornato ama circondarsi di studenti, scrittori e altre teste calde e diffondere le idee che in quel tempo sono state la sventura della nazione francese. Che cosa intende dire? Non capisco bene, madame. Persson allora fu da noi a Marsiglia, ha lavorato nel negozio di papà e la sera gli ho dato molte lezioni di francese, abbiamo imparato a memoria i diritti dell'uomo. Madame! Parve uno schiaffo. Vi prego vivamente di dimenticare tutto questo. È escluso che un Persson abbia mai preso lezioni da voi o, respirò forte, oppure sì che mai abbia avuto a che fare con vostro padre. Madame! Papà era uno stimatissimo negoziante di sete, la ditta Clary ancora oggi è un'azienda molto seria. Vi prego di dimenticare tutto questo, madame. Voi siete principessa ereditaria di Svezia. Seguì un lungo silenzio. Io mi guardavo le mani.